Amici e cari amiche di Radio Città Fucico e di The Festivals Backpack, oggi per augurarvi buone feste, un felice Natale eccetera eccetera anche a te e famiglia, vi abbiamo preparato un'intervista dal clima molto natalizio. Parliamo con Filo di Io e i Gomma Gommas, che hanno appena rilasciato un EP che si chiama 10 minuti a Natale, appunto. Per chi non conosce Io e i Gomma Gommas, insomma, loro fanno delle cover di qualsiasi genere di canzone in versione punk rock. Quindi questo EP di 4 brani non è assolutamente da meno. Cominciamo ascoltandoci Jingle Bells e poi vi lascio con l'intervista Io ai Gomma Gomma. Se vi auguriamo da parte di The Festival's Backpack buone feste. Allora, siamo al telefono con Filo di Io e i Gomma Gomma. Innanzitutto grazie mille della disponibilità di essere qua con noi. Come va? Bene, tutto benissimo. Scusa la voce, ma no, scherzi, va tutto bene. Grazie per averci invitato, siamo disponibilissimi. Allora, noi vi abbiamo chiamato perché è uscito un EP di Io e Gomma Gommas che si chiama 10 minuti a Natale, che sono quattro canzoni punk rock per il Natale, non proprio di Natale. Cos'è per voi questo periodo? E quanto può essere punk il Natale, oltretutto, secondo voi? Ma il Natale sicuramente è poco punk, però a noi ci piacciono le sfide, quindi abbiamo anche fatto in passato altre canzoni difficili, quindi diciamo che è una cosa che ci piace fare. Abbiamo rischiato con queste canzoni di Natale, che sono dei classici della musica natalizia italiana. Più che altro, ecco, una sfida che ci piace fare. Il Natale ovviamente per noi, per ognuno di noi è diverso. Del Natale ci piace il fatto che comunque ci troviamo a viverlo per forza. Quindi anche se uno non è credente, e quindi ci piaceva descrivere questa cosa, insomma. Infatti oltre all'album abbiamo anche realizzato un libricino con delle storie, dei fumetti, dei racconti, che appunto per far capire diverse sfumature, magari viste da occhi diversi, da persone e occhi diversi. Ecco, le canzoni di Natale, insomma, uno in un EP può abbastanza prevederle. Com'è nata l'idea di aggiungere racconti, poesie, fumetti a questo disco? Per questo fatto, per raccontare meglio questa cosa che ti dicevo, insomma, queste sensazioni che ognuno di noi vive, nolente o dolente, dal Natale, okay, trovandosi in questo periodo natalizio, insomma. E le canzoni che sono, dicevi, classici natalizi, perché c'è Jingle Bells, sì, o Albero Bianco Bells, Natale, e Piva Piva. Piva Piva, che è una canzone della tradizione nordica, insomma, del nord Italia, sempre natalizia. Come mai avete scelto proprio queste, no? Magari, che ne so io, All I Want For Christmas Is You, che è molto famoso in questo periodo. Sinceramente perché noi di solito quando ci approcciamo alle cover vediamo se subito esce bene, e quindi queste sono uscite benissimo e abbiamo fatto, insomma. Però in scaletta se no ce ne sono anche altre, ecco, ce n'erano anche altre. È un'idea che avevate da un po' in mente, avete raccontato. Cos'è che mancava per realizzarla e cosa è arrivato adesso invece che va fatto dire ok, è il momento giusto? Allora, i brani sono stati registrati, diciamo, nel periodo Covid, quindi 2019-2020. Stavamo registrando l'album che è uscito un anno fa, tipo. E vennero fuori i lupi. Esatto, stavamo registrando quell'album lì, e poi, non so, mi è preso qualcosa a me di getto, ho registrato queste chitarre e voci, e poi il resto della band mi è venuto dietro perché comunque funzionava. Era già diverso tempo che avevamo in mente di fare questo EP di Natale, e infatti sull'ultima traccia nascosta dell'album è una registrazione casalinga fatta dal nostro vecchio bassista, quindi si parla del 2016, e l'abbiamo inserita come traccia nascosta. Quindi c'è anche la famosa traccia nascosta, che ormai non si sente più da nessuna parte, forse solo nelle autoproduzioni punk, effettivamente. Questa sì, è una roba molto old school. Sì, è vero, anche perché noi siamo old, quindi... Beh, voi siete in giro da un po', effettivamente, sì, da qualche anno. Vorrei raccontarci molto brevemente la storia di Io e Gomma Gommas. Ma i Gomma Gommas nascono nel 2001, quindi ormai sono passati parecchi anni. E l'idea l'abbiamo, tra virgolette, presa dai Mifisti dei Gimme Gimmes, anche se in realtà già noi con le band che avevamo prima, perché veniamo tutti da band punk rock che scrivevano e cantavano canzoni proprie, però buttavamo là sempre una cover. E quindi è venuta dal periodo prima dei Gomma Gommas. L'idea quindi nasce così. E poi ci siamo formati da queste tre band diverse, abbiamo fatto una band unica e ovviamente già esistevano i Mifisti and the Gimme Gimmes, quindi abbiamo, tra virgolette, reso italiano il nome, anche se è impossibile, e sono nati Gomma Gommas. Siete anche in tour, oltretutto, a presentare sia l'EP che chiaramente altre canzoni del vostro repertorio. E com'è andato finora e perché siete partiti da un posto strano, soprattutto per l'inverno, come Casal Borsetti? Ma allora lì perché siamo soliti andare ogni anno praticamente, quindi siamo un po' di casa, e, da Casal Borsetti parlo. Mm-hmm. Poi per il resto del tour sta andando molto bene. Sabato l'abbiamo fatto qua nella nostra città natale, Osimo, prima di Cristina D'Avena, quindi tantissimo pubblico, concerto riuscitissimo, gente presa bene, si parla più di 3.000 persone al concerto, è stata una bella esperienza. E poi proseguiremo dal 4, saremo a Livigno al Marx Pub, e il 5 a Grano Zero Lecco. Okay. Queste sono le date del tour natalizio, diciamo. Avete già in mente qualcosa dopo questo tour natalizio? Ci saranno altre date? State scrivendo qualcosa o siamo in attesa? Ma allora, per il momento, visto che questo spettacolo sta funzionando, e visto che in scaletta in realtà oltre a questi quattro pezzi ce ne sono anche altri che facciamo dal vivo, perché il concertino di Natale dura sui 25-30 minuti, quindi l'abbiamo arricchito con altre canzoni che non abbiamo registrato, che facciamo solo dal vivo durante questi concerti. Quindi si pensava l'altro giorno, visto la riuscita del live, di magari ampliare questo EP il prossimo anno, insomma. Ci sono idee così un po' particolari, oppure a primavera uscire con qualcos'altro, sempre un EP. Però ancora sono tutte idee che ci frullano in testa in questi giorni, ecco. Ok, niente di definito ancora. No. Ok. Ricordiamo alle nostre ascoltatrici che stiamo, ai nostri ascoltatori, che stiamo parlando di Io e i Gomma Gommas e del loro EP 10 minuti a Natale, perché si fosse sintonizzato adesso. Siamo al telefono con Filo, ti faccio l'ultima domanda, Filo. Avete anche, sì, dei videoclip all'interno di questo, sì, che sono divertenti, molto buffi e particolari. Come li avete girati? Come sono nati? Ma in realtà vi sveliamo un trucco, c'è un'applicazione che lo fa, e basta avere le facce scontornate e le metti dentro l'applicazione e già il video è fatto. Poi ovviamente nell'applicazione ci sono altre musiche, quindi basta sostituire l'audio dei video che si riesce a fare dall'applicazione, e il risultato è quello che avete visto sui video, e che sono molto divertenti comunque, sì. Perfetto, allora consigliamo tutti di andarli a ascoltare e sì. Grazie mille Filo, è stato un enorme piacere, grazie. Quindi adesso ti chiedo solamente una delle quattro canzoni di Natale dell'EP per salutare, sì, le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Ma io direi di ascoltarci O Albero, e vi ringrazio tantissimo per questo spazio. Perfetto, O Albero di Io e Gomma Gommas.